Ciao Fedoro! Ciao Martina, bentrovati in questo 25 aprile, la festa della liberazione e la festa più bella dell'anno. La festa più bella che c'è! Noi siamo qui in diretta con Radio ZAM in quel di Famagosta, dove stiamo partecipando in qualche maniera alla festa dei partigiani del quartiere. Esatto. Che è stata trasferita a causa, dicono, pioggia dall'Arco della Pace qui in Famagosta. Famagosta, sì. Siamo al parcheggio della metropolitana fondamentalmente e chiunque sia all'ascolto e volesse partecipare può venire e partecipare in diretta con noi. Esatto, troverà un sacco di belle cose, fra cui ovviamente un bel bar, una bella cucina vegana, i panini e un palco incredibile dove si alterneranno un sacco di artisti. E poi ci siamo noi di fianco. La scaletta di artisti e degli avvenimenti del palco li daremo poi durante la diretta. Se sentite della musica entrare prepotente, la musica che verrà mandata dal palco, stanno ancora facendo delle prove, diciamo, tecniche. Noi siamo qui e vi faremo la cronaca di questa bellissima serata. E nulla. Seguiteci in radio, seguiteci sui nostri social, Radio ZAM, ci trovate un po' dappertutto, sia su Instagram che su Facebook. Mi raccomando, passate a trovarci se siete in zona. Dovrete passare a trovarci, anche perché, ribadiamo, oggi è la festa del 25 aprile, è la festa della liberazione, la festa più bella dell'anno. E cosa facciamo, Marti? Mandiamo un po' di musica, aspettiamo il palco? Ma secondo me stanno ancora facendo un po' di sound check, quindi potremmo mandare un po' di musica e poi ci ricolleghiamo dopo. Mettiamo un po' della nostra musica, vediamo se sono in grado. E da parte vicino a noi ci sono i ragazzi, amici, competitor di Radio Popolare con i quali poi faremo un piccolo intervento. Una piccola diretta in comune, sì. Oh yes, e a tra poco. In questo momento state ascoltando il palco della manifestazione. Take a deep breath, fall into the deep end. Time to take control and show these fuckers what a beam. We've been dwelling here too long, grab your piece and come along. Think it's time to sing our song and show these fuckers where they're wrong. Cause I can't stand it, can't manage the septic in my brain and how it's taking the advantage. The ones above will drown us out to make sure we don't make a sound. You hate it when I whisper, motherfucker, can you hear me now? Scoot over at the table, don't you know we've got a we ain't asking for the motherfucker better make now. Change moves now, how you feel about that? Shut the fuck up, we don't care about how you feel about that. Throw to the trenches, serving my sentence, I can get out on my own. Please be advised, you may put aside for someone who sounds like a drone. Break down these walls or you'll be at fault for someone who didn't do nothing. Tired of followers, tired of calling, so get the fuck up, it's your stand for something. vi ricordiamo che siamo in diretta da Famagosta. Oh Marti, non funzioni più. Sa perché? Non ti sento. 0-0 proprio. Ah no, sei tornata. Sei tornata? Sì, non so cosa abbia fatto, però sei tornata, fantastico. Quindi Marti, dove siamo? Siamo in diretta, siamo a Famagosta e siamo al Partigiano nel quartiere. E siamo qui per documentare tutta la serata insieme, siamo qui in realtà insieme anche a Radio Popolare, con la quale faremo una mini diretta congiunta tra un pochino. Non si sa quando, anche perché noi staremo qua un bel po'. Quanto tempo dura la nostra diretta, Marti, questa sera? Ma l'evento finisce alle 24, per cui tendenzialmente noi saremo qua a raccontare il tutto fino a fine serata. Il palco è ancora in fase di creazione, c'è un po' di sound check, nel frattempo comunque c'è super gente, super vita, perché ci sono le bancarelle, c'è il bar, c'è la possibilità di venire a mangiare, bere una birretta, insomma. Ma quanta gente credi ci sia già qua? A me sembra tanta, però sì, non sì, siamo già abbastanza carichi, c'è già un sacco di gente che mangia, che beve. Boh, secondo me almeno 400-500 persone siamo. Ah, sai? Non ne ho la minima idea, anche perché lo spazio è molto grande e non ho la capacità di quantificare la gente che c'è, però gente ce n'è, questa è una cosa positiva. Gente bella ce n'è, sì, sì, sì. Le mettiamo un po' di palco, ma lasciamo i microfoni o corriamo rischio di tornare al massimo ne usiamo uno in due, dai. Ma potremmo mai abbassare il troppo. Vabbè Marti, mi sa che non vai. No? Fai fatica, mi sa che questo canale del mixer è un po' ballerino. È un po' ballerino? Però adesso funzioni. Va bene, dai, iniziamo a raccontare un po' chi ci sarà e si alternerà a fare della bella musica sul palco questa sera. Ma soprattutto cosa succede all'inizio dalle 18:30, quindi tra pochissimo in realtà. Sì, ci sarà una bella battaglia fra bande. The Battle of the Bands. Poi ci racconteranno bene le presentatrici e le tre bande che si sfideranno durante questa prima parte della serata. Ma secondo te è vero o ci perculano ci sarà le Battle of the Band? Ma non lo so. Poi cosa c'è dopo? Poi ci sono i più POQ. POC sta per Quartigiani Nuovi Quartiere, Marti. Ah, bene, iniziamo alla grande. E poi chi ci sarà? Ci sarà un sacco di gente sul palco, eh? Ci saranno i Rescue RSA. No, la cosa degna di nota è che intorno alle 7:30 ci saranno dei rappresentanti, quel come dire, le A degli Ampi Nord Italia. Esatto. E che ci spiegheranno la loro posizione, soprattutto in questo momento molto delicato in cui in qualche maniera l'Ampi è stata attaccata da destra a sinistra, una cosa un po' dal mio punto di vista vergognosa, soprattutto se consideriamo gli attacchi sono arrivati anche da sinistra. Una realtà come l'Ampi in realtà dovrebbe essere portata ben sopra il palmo di entrambe le mani per quello che hanno fatto e per quello che rappresentano. Esatto, poi tra l'altro nella parte un po' più succulenta della serata, dopo le 22, ci sarà anche uno spazio dedicato agli studenti e ai lavoratori dello spettacolo, anche questo molto importante. Portiamo anche acqua al nostro mulino, nel senso i rappresentanti degli studenti è gente che, a cui noi diamo spesso voce quasi una volta a settimana con studenti in onda. La trasmissione che teniamo con i rappresentanti appunto dei collettivi studenteschi, sì, esatto, dei vari licei che ospitiamo, e siamo ben felici di farlo in Radio ZAM per mantenerci aggiornati su quella che è la situazione intorno all'interno delle scuole, che tutti sappiamo che ne esce in maniera un po' distrutta da un momento post-Covid, eccetera, eccetera. Ma guarda, cosa sta succedendo, Marta? Ma secondo me stanno per iniziare le bande, ci sono già le band che si stanno stringendo le mani prima di salire poi sul palco e sfidarsi. Ci sarà da divertirsi. Speriamo. Nel frattempo il palco è off, non sentiamo musica, anche perché... dopo le presentazioni di rito immagino che inizieranno a sfidarsi. Esatto. Leggo un Mi tocca samba. Che saranno probabilmente i primi. No, li vedo male, nel senso sono sotto il palco e sono in tantissimi. Come faranno a saltarci tutti su quel palco? Non lo so. C'è Gulli. Gulli, vuoi dire Gulli? Qualcosa alla radio? No, va bene. Oggi bello. Non vuole parlare. Aspettiamo che si settino. Nel frattempo vediamo la gente comincia ad accalcarsi intorno al e palco. Sotto al palco per cominciare in maniera più o meno ufficiale questa manifestazione. Gulli, ma le birre? C'erano delle birre promesse che non sono mai arrivate. Comunque ci sono dei giocolieri pazzeschi là in fondo. Il giocolieria è sempre stata una cosa molto, molto bella, a cui non sono mai riuscito ad approcciare in maniera seria. No, io non so neanche fare il giochino delle arance. Io so farlo, quello con le palline, però una volta l'ho provato con le clave. Però mi dicono dalla regia che tre minuti si inizia. Tre minuti, quindi noi dobbiamo raccontare cazzate per tre minuti, è una cosa abbastanza difficile. Beh, potremmo far partire una musichetta nel frattempo. Buttiamo su una canzone a caso, mi sembra brutto. Fa brutto? Vabbè, allora niente, facciamo che i nostri ascoltatori ci sopporteranno fino all'inizio dell'evento. Nel frattempo facciamo un po' di cronaca. Vedo un sacco di gente che si sta accalcando di fianco al palco, il che mi fa ben pensare che siamo all'inizio. Accalcando con le dovute distanze, ovviamente, e le mascherine, tutte le precauzioni per il Covid. Comunque siamo all'aperto, eh? Siamo all'aperto ma al chiuso, nel senso che siamo, lo ricordiamo, nel parcheggio di Famagosta. Il parcheggio degli autobus, per intenderci, se qualcuno conosce questa fermata. Conoscesse la fermata di Famagosta. Siamo al coperto perché davano pioggia. La cosa abbastanza interessante che fa un po' sorridere è che abbiamo trasferito tutto da... la cosa che fa un po' sorridere, dicevo, sia Gulli, che nel frattempo mi dà delle grandi istruzioni per come gestire la regia, dico una cosa velocissima, che ci siamo trasferiti dal parco dall'Arco della Pace a qui per evitare la pioggia, ma ci hanno messo borderline sotto più o meno, e secondo me se dovesse piovere noi l'acqua ce la becchiamo. Sì, noi la prendiamo, ma la prenderemo per voi, eh? Speriamo che non la prenda il mixer. Proviamo a alzare un po' di palco. C'è della confusione, c'è della sana confusione pre-evento, pre-inizio evento. Sì, si sente l'adrenalina, eh? Sì. E nulla. Tre minuti dovrebbero partire. Dovremmo partire con questa prima battaglia delle band. Tra l'altro, delle se bande. Possiamo... aspettate, ecco le buonasera. Band. Buonasera! Eccoci! Ciao a tutti! Buonasera, partigiani in ogni quartiere! E a tutto! A tutto! Prima di far partire questo strabiliante palco questa sera in questa location underground, e che più underground di così non si poteva, quindi quest'anno più acqua ha esagerato, a parte che siamo tornati in periferia finalmente, e non fa male, sentiamo la periferia che si fa è sentire, è tutta la Barona, ma avvicinatevi con il coro di Famagosta, teniamo viva la strada e la piazza con una super banda, orchestra, non so più come definirla, sono qua, li riconoscete? Sono vestiti di bianco. Sono in Mi tocca samba! Woo! Dai! stanno al palco Vito Casacca. Ok, questa è una cosa curiosa, nel senso che i Vito Casacca non sono amplificati perché sono tantissimi e sono giù dal palco. Sono giù dal palco e suonano live con un sacco di percussioni e vabbè. Proviamo a vedere se magari si prende di risulta. Non credo, però vediamo se riusciamo a farvi ascoltare qualcosa. Non sappiamo se voi li riuscite a sentire, forse sì. Purtroppo non possiamo sentirla perché sono veramente troppi, sul palco non ci stanno. Però forse grazie a noi sentite qualcosa. Tramite i microfoni della diretta, dici tu. Matti, vuoi provare a fare della cronaca? Ma sono bravi, sono veramente molto bravi. Ciancia pum, esatto. Ciancia pum pum. È difficile anche replicare. Saranno tipo... Non ti sento più, Marti. Non mi senti più? No, adesso sì. Ok. Perché devo tenere il dito qua. Sono tipo 20 elementi. Solo? Stanno spaccando. Sì. Sono molto bravi. Peccato che voi non riusciate a sentirli bene, perlomeno. Stiamo facendo degli interventi tecnici sul mixer per risolvere il problema del microfono di Martina. Prova Marti. Sentite che musica pazzesca? No, non ti sento io. La radio non mi vuole. Sì, adesso sì, mi sei, vuole. Ci sei. Guarda che colpo d'occhio. Fede, ma il fantastico ballerino che abbiamo di fronte? Se sapessi muovermi come lui sarei sicuramente molto più sciolto di quello che sono adesso, in realtà. Ma io credo che tutti debbano venire qua solo per lui, eh. Pazzesco. Marti, un po' quasi sono triste di dover essere fisso qua alla radio, non poter andare là all'interno questo... Tedaro, devo dirti una cosa? No. Non sento niente di quello che dici. Hai ragione, perché tra le mille difficoltà, praticamente la nostra uscita audio ha un'uscita sola e quindi sono io l'unico fortunato ad avere le cuffie. Ne abbiamo una sola, quindi io non sento nulla. Vabbè, ma se urlo... Se urli qualcosa sento. Se urlassi... Se urlassi sentirei meglio. Fantastico, rispettiamo anche... le coniugazioni verbali corrette. Esattamente. Io nel frattempo faccio anche un sacco di storie sul nostro profilo Instagram, Radio Zambi Sud. Sì, però da questa postazione le storie sono un po' più tristi, cioè, no? Cioè, il livello accade lì, noi siamo dietro. Sì, noi siamo dietro. Siamo alla sinistra del palco. Però ci hanno portato le birre. No, ci hanno portato le birre, questo è una grande... In realtà siamo alla destra del palco. No, siamo alla destra guardando il palco, ma noi siamo alla sinistra del palco in questo momento. Rispetto a noi sì, che siamo al contrario. Se guardi il palco siamo a destra, sì. È sempre un punto di vista. Sì, sì, esatto. Comunque, veramente bella musica. Un sacco di fotografi e un sacco di bella gente. Sono molto triste perché le ragazze dell'introduzione hanno fatto un'introduzione molto più bella della nostra, quindi tutto da imparare sempre. Sempre, sempre. Comunque abbiamo anche ottenuto un super pass. Ah sì. Bellissimo. Siamo contentissimi di avere... Credo sia stampa serigrafica. Ah, fantastica Martina. Vuoi spiegare tu ai nostri ascoltatori cos'è una stampa serigrafica? Ma magari la prossima volta, direi che non sono qui per questo questa sera. Non siamo qui per questo. Ma perché siamo qui? Siamo qui per... festeggiare la libertà, Fedoro. Liberazione. Che è la liberazione? E la libertà. Ah, tu dici la libertà è in qualche maniera una... il concetto. Sto dicendo la libertà in qualche maniera è il risultato della liberazione, anche perché... noi probabilmente non potremmo essere qui a fare tutto questo baccano. Esatto. Ma probabilmente potremmo solo cantare delle marcette fastidiose pro regime. Comunque ragazzi, sappiate che ce l'ho di fianco e non lo sento, per darvi un'idea del casino che c'è questa sera. Perché le percussioni sono sempre molto belle e molto rumorose. Tra l'altro non so se riuscite a sentire anche da casa i... forse sentite la parte melodica che viene fuori da questo trambusto di percussioni. Effettivamente 2, 4, 6, sì, saranno quasi una ventina. Sì, sì, sono 20. Fischietti, percussioni, c'è un sacco di cose belle. E un po' di gente che inizia anche a muoversi, una sorta di fogo concordato che è un ballo alla fine. Possiamo dire che abbiamo le stesse difficoltà di Radio Popolare, il che mi consola caso. Molto. Ma anche perché siamo un po' come, diciamo, il Davide e Golia in qualche maniera, nel senso che il nostro banchetto, poverino, è un po', possiamo dire che è un po' triste il nostro banchetto. Cioè, il nostro banchetto è minimal. Sì, molto minimal. Less is more. C'ho un personal computer, un mixer, due microfoni, Il mio microfono tra l'altro non va molto bene, no, perché... va bene, era solo la traccia del mixer che... Ah, ok, male. va bene. Ma invece non abbiamo neanche un tavolo, abbiamo due seggioline, il nostro tavolo è un case fondamentalmente. Alla nostra sinistra, e quindi alla nostra più destra guardando il palco, ci sono i ragazzi di Radio Pop che hanno uno stand che è un po' fronte al nostro, è tantissima Fedoro, roba. Devi smetterla di girarti a sinistra. Ah, Marciotti, scusami, stavo dicendo che confronto al nostro bellissimo stendettino, quello di Radio Pop, sembra una cosa eccezionale, ma ascoltando le tue dirette la qualità non sembra essere così differente, quindi alla faccia vostra. Beh, ma poi noi siamo dei fortissimi intrattenitori, eh? Complimenti a noi, cioè a noi di Radio Zambe, noi del collettivo Zambe. Tra l'altro, se posso, i partigiani in ogni quartiere, adesso è arrivato, hanno amplificato, non arrivati dei microfoni da... Sta per succedere qualcosa? Non ci sono più, sa che non andate ad amplificare qualcosa. Vabbè, stavo dicendo che i partigiani in ogni quartiere è una manifestazione che siamo arrivati ormai alla 15ª edizione, la prima in che siamo tornati in presenza dopo il Covid, ma... insomma, far sapere a tutti i nostri ascoltatori che Radio Zami, collettivo Zami in qualche maniera è sempre stato all'interno dell'organizzazione, e di questa cosa siamo molto orgogliosi e contenti. Sì, sì, devo dire che è proprio una bella cosa. E c'è sempre il ballerino, che io invito a venire a vedere. C'è sempre più gente che balla. Sì. Vorrei provare a fare una foto, Fedoro, da mettere su Instagram per far vedere la nostra condizione. Va bene. Quindi se volete vedere dove siamo, come siamo e cosa stiamo facendo, seguiteci su Instagram. La vogliamo dare l'indirizzo di Instagram? Vogliamo ricordare anche l'indirizzo? Ah beh certo, Radio Zami Sud. Mi hai detto troppo veloce. Radio Zami Sud. Ma dove? Su Instagram. Io devo scrivere Radio ZAM. Mi. Come Milano, esatto. Zam Mi. Sud. Sud, perché siamo a Milano Sud. È iniziato il classico accompagnamento di applausi da parte del pubblico, incitati da super partecipazione. Comunque Fedoro, vorrei condividere con tutta la radio che ho una faccia gonfissima. Bello, bello. Questo è il motivo per il quale siamo in radio, non siamo in TV, nel senso, esatto, perché siamo molto radiofonici e poco videogenici, mi piace. È arrivato Orso nel frattempo a vedere che tutto forse fosse funzionante e bello, e a portare un sacco di pass. Ciao Orso, dicelo già, vuoi fare un saluto ai nostri spettatori? Mi sa che non ti ha sentito. Non mi ha sentito, no. Se ne torna al suo dovere, perché Orso è una persona... Si dice quando sei troppo, lavori troppo? Uno stacano. Uno stacano, esatto. Io sono una persona stacanovista, sempre dedito al suo... Dal milanese stacano. Stacano. Sto dicendo sempre dedito al suo attivismo. Nel frattempo volano passeggini, ragazzi. Nel senso, è stato passato un passeggino da una parte all'altra di una stanza. Sì, era vuoto il passeggino, è importante dirlo. Sì. È un'impressione mia o questo scantinato di periferia da cui stiamo trasmettendo, partecipando alla festa dei partigiani del quartiere, si sta riempiendo? Si sta riempiendo alla grande, anche perché è veramente una super bella festa, raga. Ah, un sacco di gente in bicicletta ha approcciato la venue della location. Comunque, se siete a casa, non fare niente e avete voglia di divertirvi un po', fate un salto. Ma io innanzitutto vorrei scusarmi un po' con le persone e il pubblico, perché io non sono veramente un così bravo improvvisatore, mi sto improvvisatore. E Daro, sei bravissimo. Speriamo, volevo proprio sentirmelo dire che i complimenti fanno sempre un sacco di piacere e danno autostima, ma sono sicuramente più bravi i ragazzi che si stanno in questo momento esibendo sotto il palco. Decisamente sì. Stanno veramente spaccando. Bello anche vedere le mascherine, però, se posso essere sincero, nel senso, con tutta la cosa brutta che rappresentano, bello vederle, perché in qualche maniera si rappresenta la consapevolezza comunque di questo momento brutto e difficile a cui ne stiamo, si spera, uscendo. Speriamo. La responsabilità, dicevo, delle persone che frequentano la manifestazione del partigiani di quartiere, responsabili sotto ogni punto di vista. Divertiamoci responsabilmente. pedalo c'è un ragazzino che sta spaccando col ballo là in fondo, eh. Marti, non dovresti guardare i ragazzini però. Non ho capito cosa hai detto, ma so che è una cosa brutta quella. Ho detto che non dovresti guardare i ragazzini. Ascolta, avrà 8 anni. Alla tua veneranda età, a maggior ragione. Però è bravo, sta spaccando. Un ragazzino a 8 anni, quando sei un bambino, dai. Ma comunque non lo vedo. Ha smesso di ballare adesso. Ah, ok, probabilmente perché ci stava ascoltando e sentì un imbarazzo. Possiamo immortalare questo personaggio meraviglioso? No, descriviamolo. Allora, partiamo da un bellissimo cappellino rosso. Ma innanzitutto stiamo descrivendo un partecipante a questa manifestazione che è sicuramente molto ben coinvolto dalla musica. E partiamo dall'outfit, che è un outfit anni 90, se posso, proprio da B-boy anni 90. Incredibile, quindi, sì. Quindi cappellino rosso. Di lana, raga, di lana. Rosso perché possiamo quasi dire che rosso è il colore predominante di un sacco di persone che hanno. Poi cosa abbiamo? Una bella maglia XXXXL bianca. Bianca, sì. Uno smanicato a quadri rosso e neri, classica fantasia punk. Il panta l'abbiamo descritto? Un jeans largo, larghissimo. Beh, super largo. Aspetta, gli applausi. Applaudiamo a questa meraviglia. Scarpe da skater e occhiale. Assolutamente in tinta le scarpe con lo smanicato a scacchi e il cappellino. Il cappello, esatto. E la cosa bella è che in qualche maniera mi fa un'invidia per il modo in cui lui è in grado di gestire la coordinazione corporea e... Balla meglio di me, te messo insieme. Eh sì, quello che stavo provando a dire. Comunque, tanta roba. Noi facciamo un sorso di birra, immagino che anche i ragazzi stiano in qualche maniera ricoordinandosi e riallineandosi per la seconda traccia, possiamo dire traccia? Ma sì, direi di sì. Di questa Battle of the Band. Veramente bravi, veramente veramente coinvolgenti, infatti hanno... Allora, devo cercare di capire esattamente come si chiamano, perché hanno una bellissima felpa, ma ovviamente hanno tutti gli strumenti, quindi sono un po' bardati. Se non ho capito male, sono Mi Tocca Samba. Mi Tocca Samba? Sì. Adesso sono fermi a raccogliere gli applausi e gli stimoli della gente che in qualche maniera interagisce con loro. Beh, considerate che prima c'era una dispersione totale di gente e da quando hanno iniziato a cantare loro, super concentrazione sotto il palco. Oh, sono riuscito a sbrogliare il cavo. E ricominciano. Io avevo un problema con che non ho condiviso Miro, ho legato col cavo e adesso che sono riuscito a liberarmi sono contentissimo perché riesco a muovermi. Dicevo che ero imbrogliato col cavo. E adesso sei libero? Sì, adesso riesco a muovermi. Assolutamente in linea con la festa di questa sera. Festa della liberazione. Cosa bella, Marti, è far notare anche, dovremmo raccontare a casa, la varietà del pubblico presente, nel senso che vediamo... Sì, è incredibile! Neofamiglie allora, con bambini in braccio, esatto. E signore un po' e signori un po' più anziani che insieme ballano e si divertono di fronte ai Mi Tocca Samba che in qualche maniera hanno fondamentalmente occupato i metri quadri adiacenti al palco perché sono talmente tanti che non starebbero diciamo. Ma questo cosa ci dice? Ci dice che la festa della liberazione è la festa di tutti quanti. È una festa trasversale. È una festa per tutti, tutti dobbiamo festeggiarla. E ricordarcene, ricordare perché festeggiamo oggi. Non ti ho sentito come al solito, Fedora. Ma scusami, devo urlarti nelle orecchie. Non praticamente sì. È importante mantenere vivo il ricordo di questa È festa. Fondamentale, mantenere fondamentale. Vivo il ricordo, ma soprattutto riempirlo di nuovi valori, ed è quello che stiamo facendo quest'oggi. Sentiremo tutti gli interventi dal palco e capiremo perché è importante mantenere questa tradizione viva. Anche perché, Fedoro, se tu ci pensi, il tempo storico non è esattamente quello che noi percepiamo. 70 anni sono pochissimi. Noi siamo liberi da 70 anni, non è tantissimo, e dobbiamo continuare a tenere vivo questa memoria. Sì, sono 70 anni, però se pensi, in realtà potremmo anche vederlo in un'accezione negativa, sono 70 anni che abbiamo le basi NATO in Italia, questa cosa a me fa poi girare il cazzo, nel senso va bene forse averle diciamo subito dopo la liberazione, la guerra, tutto quello che è stato, ma 70 anni dopo sono un tempo infinito per avere ancora le loro basi, le basi NATO americane eccetera sul nostro territorio, dal mio punto di vista. Quindi anche qua sempre e poi continuo. È per quello che ti dico che il tempo storico è diverso. Gulli viene e ci fa un sacco di sprone a questa serata, ma noi non abbiamo bisogno di sprone, Fedoro. A me non fanno piacere, bravo. Ce la stiamo cavando benissimo. Continua a incitarci che mantieni alto il morale. Sono incuriosito, tra l'altro vorrei sapere se quelli qua a fianco a noi sono tutte le sue menzue che stiamo dicendo noi o se si la cavano meglio. Dovremmo sentirli. Indecisi, la birra è buonissima. Quindi passate a trovarci anche per la luna buonissima. Tornate violentissimo in palco, quindi hanno acceso qualche microfono in cima, vi facciamo ascoltare un punto a punto. Ma in questo momento sono convinto che sentiate molto meglio la musica da casa. Probabilmente hanno avvicinato dei microfoni. Tra l'altro ci stanno facendo delle foto, Fede. Oh no! Siamo famosi. Mi giro. Ma le stanno facendo la radio popolare più che a noi. Fedora ha fatto la sua prima figuraccia della serata. No, credo che sia almeno la seconda o la terza. Comunque a breve immagino che ci sarà l'intervento di Laura Pontone, attrice di teatro. Vai. Speriamo le diano un microfono. Me lo auguro. Applausi. Bravissimi, veramente bravissimi. Thank you. Comunque Marti, sa che adesso non si sente più il punk, non so per quale motivo. Noi siamo qua a cavarcela in due, dall'altra parte sono almeno in tre che parla, è molto più semplice così. Beh, direi, noi facciamo molta più fatica, ma in realtà intratteniamo alla grande. Ma diciamo che secondo me è anche sufficiente la musica, se riuscissimo a farla sentire meglio è proprio un bel intrattenimento. Avevo ragione io, Guglia, a dire che questa era bella, ciao. Bravo Fedoro. Perché dovete sapere che prima ho detto a Gulli per scherzo questa è bella ciao e il Gulli mi ha risposto non credo proprio, in realtà pac, Fedora non sbagliava mai. Ma così hai abbassato il palco? Non si sente più? No no, anche prima. Allora vi spiego cosa sta succedendo. Fedoro e Gulli stanno un attimino disquisendo di come mixare audio e palco. Secondo me è molto più interessante il palco in questo momento. Forse Gulli ci risolve il problema delle cuffie, Marti. Incredibile. Yeah. Ciao. Spero che voi la stiate sentendo perché è bellissima questa versione. Ecco, vorrei vedere un po' di più in più su questa versione ritmata di Bella Ciao. Tanta gente che balla, tanta gente si diverte e ci scorda qua di chiudere il pugno e alzarlo al cielo. Fedoro, tu che hai le cuffie? Sì. Si sente un po' questa musica meravigliosa? Ma spero qualcosa. Mi sa che si sente, stanno spingendo. Si stanno scatenando anche le presentatrici sul palco. Perché a breve avremo intervento. Per la Barona! Super! Grazie, grazie! Fantastici! Fantastici come anche la banda degli Ottoni e la Funk che ci accompagnano nelle lotte di piazza e che purtroppo, per fortuna, sono ancora in piazza in manifestazione. Sono stati trattenuti dalla piazza, infatti. Forse se arriveranno... Fatto di gruppo Paola Piacentini. Ci mettiamo anche noi, bombiamo, bombing, mi tocca, Samba. Di Marinis, vai con la foto, c'ha la reflex. Allora, dicevamo, Funk, Ottoni, applauso. Se arrivano, ancora applauso, sì. Ancora mi applauso tocca, per mi Samba, tocca. Grandissimi. Grazie. Dai Paola, che underground, che underground. Ce la facciamo. Siamo partiti dalla strada, Paola. 15ª edizione di Partigiani in ogni quartiere, 15 anni, adolescenza piena, pura. La prima volta in Barona, primissima volta, ma la prima volta, quella di 15 anni fa, era in Torchiera, Cascina Torchiera, lo ricordiamo, facciamo giusto una piccola sintesi. POQ a un certo punto nasce perché, perché stava aprendo la sede di Cuore Nero, una sede di Cuore Nero di rimpetto a Cascina Torchiera, e lì si è mobilitata la cittadinanza, si sono mobilitati i movimenti, le realtà singoli, e così cambiando negli anni, però questo un po' è quello che è rimasto, una rete trasversale che ancora oggi abita le periferie. Attraversato le periferie, è stata all'Arco della Pace. Questa location magari un po' meno sexy rispetto all'Arco, un po' meno fighetta hipster, ma quanto è underground. Infatti, guarda, non mi sono neanche truccata, ho messo lo scarpone e underground. Che neanche a Berlino fanno un più così. Manco a Berlino. L'anno scorso ci siamo lasciati con una piazza ibrida. Paola, tu eri in piazza, invece tu eri Rita Pelusio. Chiuse dentro all'Arcimondini, che salutiamo insieme al Bloom di Mezzago, che ci hanno tenuto al caldo, ospitati e sostenuti l'anno scorso. Facciamogli un applauso, perché le reti sono anche questo. Presidi culturali che accolgono quando c'è bisogno, ti arriva l'abbraccio giusto al momento giusto. E a questo momento giusto chiamerei sul palco a fare da cerimoniere di apertura con le parole di Partigiani in ogni quartiere, Domenico Ferrari. Vieni Dome! E non gli hanno dato un microfono, ci hanno detto che non te li possiamo dare i nostri. Ah, e se lo prende da solo. Bravo Dome, perché lui è anche un tecnico, oltre ad essere un grande drammaturgo. Domenico, il discorso arringa la folla. Ah, ecco. Un po' quello che vorremmo dire come partigiani in ogni quartiere. Hanno detto che ci dobbiamo schierare, e sono più di 2 anni che ce lo dicono. Schierarci per le chiusure o contro le chiusure, per il vaccino o contro il vaccino, per il Green Pass o contro il Green Pass, per l'invio di armi o contro l'invio di armi. Immersi in una retorica di guerra in cui l'unica logica ammissibile è quella delle parti contrapposte, del nemico alle porte, del risentimento sociale. Una retorica di guerra che, come nel peggiore dei romanzi distopici, ci ha portato alle soglie di una guerra vera. A questo invito a schierarci, a questa chiamata alle armi, chi stasera salirà su questo palco ha detto no. No è una parola che fa paura, perché non si può dire no quando si è in emergenza, non si può dire no quando ci si deve difendere e quando si pensa a sopravvivere. Per noi invece, proprio quando la situazione è critica, i no sono più necessari che mai. Bisogna dire no a un presente folle per dire sì a un futuro più intelligente. Allora, qui ci sarà gente che all'ordine di distanziamento sociale, per esempio, ha risposto con intelligenza e senza sottovalutare la situazione sanitaria, è uscita a portare aiuto a chi ne aveva più bisogno, creando reti di mutualismo e di socialità. Ci sarà chi all'obbligo del Green Pass ha risposto che quello non era il punto, che la sanità andava ripensata radicalmente per poter funzionare. Una sanità pubblica alla quale, dopo i proclami dei primi mesi più bui della pandemia, il governo ha pensato bene di ridurre ulteriormente le già scarse risorse a lei destinate. Ci sarà chi, gli studenti, di fronte allo scempio della DAD, ha chiesto di investire sulla scuola, in edilizia, in personale, ha chiesto di ripensarlo tutto il sistema dell'istruzione, a partire dai programmi, dalla pedagogia, fino alla maledetta alternanza scuola-lavoro, maledetta lei e chi l'ha pensata, perché non è possibile morire in un cantiere quando si dovrebbe stare a scuola a studiare. Ci sarà chi, al monito dello stare tutti a casa, ha risposto che per farlo bisogna prima rifondare lo Stato sociale, tornare a criteri di eguaglianza e ridistribuzione della ricchezza, perché in questo paese non tutti possono permettersi una casa o permettersi un lavoro dignitoso. E chi alla richiesta di spegnere i condizionatori risponde che l'ambiente non lo salvi con battute svilenti o false promesse, ma con interventi seri e programmi a lungo termine. E ora, ora ci dicono che l'unica soluzione è la guerra. Bene, noi rispondiamo che la guerra non è una soluzione. E chi paragona l'attuale conflitto alla nostra resistenza, diciamo chiaramente che il paragone è fuorviante, ipocrita e vergognoso. E sia chiaro, non perché il popolo ucraino non abbia il diritto sacrosanto di difendersi da un'aggressione ingiustificabile, ma perché la nostra responsabilità di cittadini italiani è quella di perpetuare la pace che i nostri partigiani ci hanno regalato, un'eredità che va difesa con tutte le forze. La guerra non si inventa. È il conseguenziale frutto del mondo che abbiamo creato, e né tantomeno si inventa la pace, perché richiede impegno quotidiano, diplomazia, scelte, parole differenti da quelle che ascoltiamo ovunque e ogni giorno. La pace che vogliamo costruire non riguarda il presente, ma il futuro di tutti. Erich Fromm scriveva: «La storia umana è iniziata con un atto di disobbedienza». Ed è probabile che si concluda con un atto di obbedienza. Noi siamo quelli che disobbediscono, che spezzano le armi, che cantano nelle piazze quando l'ordine è silenzio, che cercano il dialogo mentre tutti urlano, che alzano barricate quando tutti abbassano la testa. Siamo i disertori in quella parte di mondo lasciata deserta dal potere. Ed è da lì che vogliamo ripartire. Dalle comunità resistenti, mutualistiche, responsabili, che abitano i nostri territori. Comunità coraggiose, a volte radicate, a volte per loro natura estemporanee, ma sempre capaci di pensare l'impossibile e di raccontare l'inesprimibile. A loro va il nostro ringraziamento, come a tutti gli artisti che si esibiranno questa sera su questo palco. È un grazie, poi te lo spiego. Un grazie lo vogliamo dire anche a questa piazza, che dopo 3 anni si ritrova a festeggiare quello che per noi è e sarà sempre il giorno più bello dell'anno. Ora è sempre Resistenza! Ora è sempre Resistenza, grazie Domenico! Grande! E a proposito di comunità resistenti, a proposito di cose che si possono fare insieme, beh, Marti, Paola, mi senti? C'è una barca in più nel Mediterraneo. Sì, abbiamo qua il vicepresidente di Rescue People, Saving People, neanche così. Corrado Mandreotti, sì. Si è già guadagnato l'applauso. Sì, ti sento, è che c'è il palco molto alto. Però adesso dovremmo sentirci un po' meglio tutte e due. Ma io ti sento con un delay pazzesco, ma ti sento. Vabbè, meglio che niente. Comunque gran bel discorso, festa e va ricordato. Sì, sì, sì, nulla da aggiungere. Ci siamo liberati del nazifascismo e questa cosa va sempre ricordata. Non è, come dire, una ricorrenza. È una festa perché ci siamo tolti dalle spalle il gioco del nazifascismo. Io posso. Un momento di interruzione tecnica, problemi col microfono sul palco, ritorna. Sì, e quindi sì. Va ricordato che è una festa. Però non possiamo non pensare al fatto che mentre noi festeggiamo la liberazione dal nazifascismo c'è in atto una guerra, e la guerra è sempre un dramma perché vuol dire morte, vuol dire distruzione, vuol dire povertà, e soprattutto perché la guerra fa bene a chi vende le armi, a chi ha un potere da difendere, e schiaccia invece le persone che hanno bisogno, cancella diritti. Ma va anche detto che il dramma di questa guerra trascina in sé degli aspetti collaterali terribili. Con questa guerra non si parla più di tutte le guerre che ci sono nel mondo, in Africa e in Asia. Questa guerra ha cancellato tutto, ha cancellato il bisogno che c'è di salvaguardare il pianeta. Fino a 2 mesi fa era l'elemento centrale. Ha cancellato l'esigenza di risposta ai bisogni di salute dopo 2 anni di pandemia. Questa guerra sta cancellando tutto. Questa guerra sta creando discriminazioni tra profughi che arrivano dall'Ucraina e i profughi che continuamente scappano dalle guerre dell'Africa, dell'Asia, dell'Afghanistan. E allora nulla contro i profughi dell'Ucraina, ma fino a qualche mese fa che cosa dicevamo ai profughi che annegavano nel mare Mediterraneo, che chiamavano di essere soccorsi e si faceva finta di niente? E solo perché ci sono le ONG a sostituire i paesi che non presidiano più quei mari, si salvano quelle persone. Bene, noi di Rescue, è una ONG che è nata qui a Milano e ha deciso di comprare una nave con grandi sacrifici per fare qualcosa di concreto, per essere lì dove le persone rischiano di morire perché scappano dalla miseria, dalle guerre, dalla povertà. E abbiamo deciso di essere lì, abbiamo già fatto delle missioni, abbiamo salvato delle persone e ci stiamo preparando per tornare a solcare quel mare. E mentre salviamo abbiamo però l'esigenza di dire e di costruire nei nostri territori degli equipaggi di terra che portino avanti gli obiettivi che ci poniamo con la nostra nave, che nessuno può morire perché scappa dalla guerra, dalle ingiustizie e dalla povertà. Nessuno, a prescindere dal colore della pelle, della nazionalità, perché nessuno deve essere lasciato a morire. E allora quello che vi chiediamo è di sostenere questo progetto e di sostenerlo non solo perché vuole salpare e solcare quel mare, ma perché vuole creare una coscienza e una sensibilità che cambi la politica del nostro paese, perché lì non ci dovremmo essere noi. E invece cosa facciamo noi con i nostri soldi? Finanziamo la Guardia Costiera Libica, gli compriamo delle navi veloci e noi siamo costretti a raccogliere 10 euro da tutte le persone che ci seguono per salvare e arrivare prima della Guardia Vedetta Libica. Allora il nostro obiettivo è salvare le persone, ma anche creare un paese che un domani nel Parlamento, quando si chiederà di votare l'aumento per gli armamenti, i soldi per la Libia, il Parlamento si alzi e dica no! Dicano no! Dicano no! Dicano no! Dicano no! Dicano no! Grazie Corrado Mandreoli. Grazie Corrado. E lo ricordiamo, dicevamo prima, la barca in più è quella che grazie ai cittadini e le cittadine Rescue si è riuscito a mettere in mare. Se non fosse chiaro. Adesso qua abbiamo una platea. Perfetto, perché vi stiamo per portare un gran pezzo di teatro. Quindi voi siete sicuramente... Ci siamo disconnessi un attimo, ragazzi, piccolo problema tecnico, ma siamo qui. Speriamo siete riusciti a godere della maggior parte dei discorsi che sono stati fatti sul palco. A breve un nuovo intervento e siamo qui. Siamo sempre qui a Famagosta, al Partigiano in ogni quartiere. Super serata, vi aspettiamo se siete in zona e volete passare, perché è davvero un momento per festeggiare tutti insieme. Lombardo Radice, insegnante politica partigiana e pacifista, e l'artista che sale sul palco, ve lo diciamo tra pochissimo chi è, immagina di raccontare ad una piccola spettatrice quello che è stato il ruolo delle donne partigiane durante la Resistenza. Quindi a tutte le piccole grandi ascoltatrici, ma anche ovviamente a tutti gli altri, dedichiamo un po' questo pezzo di Laura Pozzone. Eccola a voi, Laura. Laura Pozzone che ci ha un pezzo di teatro. Noi diciamo che possiamo verificare che siano tutte loro. Voglio verificare, vediamo queste, grazie. Ma noi ce l'abbiamo. Sa. Buonasera a tutti e a tutti. Mi hanno fatto vedere il vestito di Irma Bandiera, ragazza partigiana. Quello di quando i tedeschi l'hanno fucilata l'estate del 44. Un abitino di cotonina rosso a pallini bianchi, abbottonato davanti fino in fondo alla gonna. Fa pensare alle gite domenicali al mare di giugno. Ci si mette il costume, si riempie in fretta una borsa, l'asciugamano, il pettine, lo specchio, uno sfilatino. E sin dal mattino nel tram di città pieno zeppo le dita corrono ansiose al primo bottone. Già presentono l'ora che il vestitino resterà come un sigillo di ceralacca scarlatta sulla pagina distesa della spiaggia bianca di sole. Anche fa pensare alle scampagnate in bicicletta. La ragazza pedala svelta e i pallini bianchi le ballano e rimbalzano sulle spalle come minuscole biglie, sempre lì lì per ruzzolare via tutte e lasciar solo quello squillante colore d'estate. Ora ci sono i grumi nerastri, striature di bruciato al petto, sui fianchi, perché Irma a 20 anni l'hanno ammazzata che portava quel vestitino rosso. Il 13 agosto 1944. Atroce pensare a qualcuno, uomini, che abbia preso la mira, puntato, sparato addosso a quella vestaglietta da bambina. Pensate, la morte, vestita di cotonina rossa a pallini bianchi. Atroce, atroce. Questa parola mi martella il cervello. La più atroce delle tante immagini atroci, raccapriccianti, fotografie, documenti, racconti, di un'età atroce e incredibile che pure abbiamo vissuto. Se chiudo gli occhi vedo da un immenso esercito di morti grigi, colore di terra, venire verso di me la ragazza sconosciuta, col suo vestitino rosso a pallini bianchi. Questo è uno scritto di Laura Lombardo Radice del 1946, raccolto nel suo libro Soltanto una vita di Chiara Ingrao. Quello di Irma Bandiera è solo uno dei tanti e tanti sacrifici che moltissime partigiane hanno fatto combattendo per la libertà e per la democrazia. Dopo aver letto questo brano ho ripensato a me ragazzina, poi bambina. Forse perché anch'io, come tante, avevo un vestitino di cotonina, a fiorellini però. Madonna, io ho sempre odiato i vestitini. E allora, non lo so, per una strana associazione di idee ho provato a fare quel giochino che ogni tanto esce fuori sui social, no? Cosa diresti alla te bambina se la incontrassi oggi, se te la trovassi davanti? Come le spiegheresti quello che è successo a quel vestitino? Perché siamo qui oggi. Insomma, come spiegare ai bambini e alle bambine un orrore del genere? E allora ho iniziato a raccontarmi una storia. Ciao, piccola me. C'era una volta Irma, ma c'erano anche Lidia, Carla, Teresa, Renata, Marisa, Miriam, Nilde, Gina e tante tante altre ragazzine che sono state le donne della Resistenza. Non conosci ancora la Resistenza? Resistenza, senti che bella la parola. Resistenza, singolare femminile. La Resistenza è stato un movimento nato per combattere il nazifascismo. di questo movimento facevano parte tantissime donne. Quelle ragazze, non tanto tempo fa, prima che tu nascessi, hanno combattuto per noi, si chiamavano partigiane e ci hanno lasciato una importantissima eredità. Dobbiamo raccogliere il testimone di queste donne che hanno lottato per difendere la libertà e rivendicare l'emancipazione della donna. Vabbè, non sai ancora cosa significa emancipazione, ma lo scoprirei presto, piccola me. La cultura patriarcale, cultura poi, vabbè, quella roba lì, cos'è il patriarcato? Vabbè, non sai ancora niente allora, vabbè, ma tranquilla che anche quello lo scoprirei presto. La sua ombra sarà sempre presente. Ecco, come dicevo, la cultura patriarcale, quella fascista, volevano una donna relegata al ruolo di moglie, madre, angelo del focolare. Invece in tantissime hanno scelto di difenderci, in mezzo alla neve, in montagna, da sole. Ma lo sai che tante andavano in giro da sole, in bicicletta? Erano le staffette. E fare la staffetta era un lavoro solitario, quindi molto, molto pericoloso. I compiti delle donne della Resistenza furono tanti. Fondarono squadre di primo soccorso per aiutare i feriti e gli ammalati, fecero da infermiere, contribuirono alla raccolta di indumenti, cibo, medicinali, si occuparono dell'identificazione dei cadaveri, dell'assistenza ai familiari dei caduti. Garantivano le comunicazioni e i collegamenti tra le varie brigate e mantenevano i contatti tra i partigiani e le loro famiglie. Accompagnavano chi doveva fuggire. Erano spesso donne, ragazzine, tra i 16 e i 18 anni. Si pensava destassero meno sospetti e non venissero sottoposte a perquisizione. Percorrevano i chilometri in bicicletta, a piedi, talvolta anche in corriera, in camion, per portare notizie, trasportare armi, munizioni, sotto la pioggia, il vento, tra i bombardamenti, i mitragliamenti, con il pericolo ogni volta di cadere nelle mani dei nazifascisti. Sì, sì, certo che era pericoloso. Ma loro sapevano che quando hanno deciso di unirsi alla Resistenza, sapevano che non sarebbero più state uguali a prima. In quel momento sono diventate padrone di se stesse. Le donne hanno avuto un ruolo primario durante la Resistenza, non da comprimarie. Purtroppo il riconoscimento del ruolo delle donne è ancora una questione non risolta completamente. Purtroppo, quando si parla di donne, e questo vale in tutti i campi, l'oblio sembra sempre inghiottirle in un buco nero, e questo è successo anche a queste donne straordinarie. Pensa, piccola me, che quando si organizzò la grande manifestazione a Milano dopo la liberazione, non si permise che le donne vi prendessero parte. Si disse che era meglio non farle sfilare, perché? Perché il popolo non avrebbe capito. Frase che fu spesso usata per fermare le donne. Cosa c'era di così difficile da capire? Non si sa. E soprattutto, se qualcuno deve capire qualcosa, certo la censura non è il metodo migliore per fargliela capire. Vedi, piccola me, finché si trattava di aver dato assistenza, cure, andava tutto bene, erano ammirate, ma per ogni passaggio trasgressivo la solidarietà diminuiva, fino ad arrivare al sospetto, al dileggio. Questo perché, come ti dicevo prima, era ben radicato il concetto che la donna dovesse solo accudire. Ma una donna sul campo, magari addirittura armata, quella faceva paura. Proprio per questi motivi di medaglie al valore ne sono arrivate poche. Ma come ha detto Nil Degliotti, se noi italiani possiamo guardare in faccia la nostra storia con l'orgoglio di chi ha riscattato il nostro recente passato, è in gran parte merito di migliaia e migliaia di donne che nel silenzio e nell'ombra hanno permesso che questo avvenisse. 35.000 furono le donne, 4.653 vennero arrestate e torturate, 2.750 deportate, 2.900 uccise. E bisogna stare molto attenti e attente a non sminuire quello che succede continuamente ad un fascismo di ritorno. Non passa giorno senza che la cronaca porti alla ribalta fatti, temi, dibattiti politici legati al fascismo. E non bisogna giustificare certi comportamenti come opera di pochi sparuti nostalgici. dove c'è ignoranza, dove c'è violenza, lì c'è fascismo. Se è una storia vecchia, perché ancora siamo qui oggi? Perché non dobbiamo dimenticare. E noi ci saremo sempre, anche fra 100 anni, 1000, anche quando i partigiani e le partigiane non ci saranno più, perché i loro ideali non moriranno mai. Io avrei finito, piccola me. Il lieto fine? Ecco, per scrivere un lieto fine c'è bisogno di tanta gente. Scriviamolo tutti e tutte insieme, non dimenticando cos'è stato quel periodo, onorando le vite dei partigiani e delle partigiane. Dobbiamo fare politica ogni giorno, ma nel senso più profondo della parola, pensando a noi, cancellando gli egoismi, abolendo le disuguaglianze, ripensando il mondo, rifondando i valori. Mi raccomando, di a tutti i tuoi amichetti e amichette di essere sempre antifascisti. Bisogna fare attenzione per non tornare indietro con i nostri diritti fondamentali, perché nel Novecento il cammino delle donne è stato il cammino della democrazia. No, vabbè, questo l'ha detto Carla Nespolo, non io. Comunque, ultima cosa, per quanto riguarda questo cammino c'è ancora tanto da fare per noi donne, tanta strada da percorrere, migliaia di anni di discriminazioni e di ingiustizie da superare, ma unite ce la faremo, così vivremo felici e contente. Ultimissima cosa, mettiti l'apparecchio, se no da grande ti penti, mangia tutto quello che vuoi finché hai il metabolismo veloce e mi raccomando, ora e sempre, resistenza. Beh, Laura Pozzone, grandissima, grazie. Un applauso ancora. Abbasso un attimo il palco per due considerazioni velocissime. Vuol dire che il... c'è stato uno spunto molto interessante, che cioè nel senso ce ne sono stati molto di più di uno. Io faccio fatica con questo ritorno a capire quello che sto dicendo. Quello che volevo dire è che c'è stato uno spunto molto interessante, che è quello che all'inizio disse, che usciamo da 2 anni di Covid e ci buttiamo a piedi pari in questa guerra. E effettivamente è una considerazione che ho sentito più di una volta, è una considerazione che ho sentito anche in casa, e non a caso probabilmente è venuto da una donna, mia madre, che diceva proprio: ma io vorrei sapere, un ragazzino, un bambino che esce da 2 anni di pandemia e si trova a vedere la violenza di queste immagini in televisione, la violenza e la crudeltà e la crudità, queste immagini così crude che vediamo in TV, ma un ragazzino come cresce, mi disse. E effettivamente è una considerazione importante, nel senso che noi usciamo da 2 anni che sono stati, non so, tragici o comunque difficili, orribili. E ci siamo buttati in questa guerra che non abbiamo neanche avuto il tempo di concepire, di realizzare e in qualche maniera di comprendere, e ci siamo bombardati, tassati da queste immagini così violente, così crude. Poi è una guerra veramente social, nel senso che la vedi su Instagram, la vedi. Sì, è una guerra del 2022 dal punto di vista della comunicazione, e secondo me un grosso problema della comunicazione è questa monopolizzazione delle informazioni, nel senso che non siamo in grado di portare avanti più discorsi contemporaneamente, quindi abbiamo abbandonato dal giorno alla notte la pandemia, che la pandemia in realtà non è ancora finita, abbiamo abbandonato dal giorno alla notte una serie di conflitti mondiali che già esistono, pensando per esempio all'Afghanistan, pensando alle guerre che ci sono in Africa, cioè come se noi non fossimo in grado, tutto quanto. Esatto, come se noi non fossimo in grado di macinare più informazioni negative alla volta. E questa guerra è una guerra assolutamente che parte dalla comunicazione e vive nella comunicazione, nella malcomunicazione, nella malinformazione. Ed è veramente brutto, penso per un ragazzino, per un adolescente che ha vissuto questi anni senza fondamentalmente capire effettivamente cosa stia succedendo, cosa stia accadendo, perché questa guerra ha una storia che non è esattamente così recente, no? Però mancava l'informazione prima, non era importante, non era interessante prima. E capiamo invece, scusami se ti vengo contro, ma l'idea è tutta questa comunicazione, questa malcomunicazione, malinformazione, secondo me è qualcosa di in qualche maniera voluto, cioè nel senso non non ci vedo una narrativa. Secondo me questa è una propaganda che noi stiamo vivendo in un momento storico ben preciso, ed è una propaganda nel nostro sistema capitalista, o comunque nel nostro sistema di comunicazione, che ci raccontano le cose come noi le dobbiamo comprendere, perché noi, diciamo, dobbiamo mantenere. In realtà non mi stai venendo contro, mi stai dando ragione, quindi in un certo senso il punto è proprio questo: non è informazione questa è proprio propaganda, e manca l'informazione, manca la base dell'informazione, cioè ci sono messaggi, non sono cronache, no? E non va bene per le persone adulte, figuriamoci per dei ragazzini che in questo momento si stanno formando, no? Torniamo in diretta col palco. Assolutamente. In piazzale d'Ateo, per ricordare Gaetano Amoroso, ucciso nel 76 proprio dai fascisti, però sarebbe intollerabile che a Milano accadesse questo, si ritornasse al 2015 quando i fascisti facevano quella parata nazifascista nella città di Milano, medaglia d'oro. Perciò noi vi invitiamo a fare attenzione a queste cose, a vigilare. Noi saremo sempre presenti e vi faremo sapere come saranno le altre iniziative contro la guerra e le nostre iniziative antifasciste. Vi spero di vedervi a tutti, buona serata e buon concerto. Grazie Walter. E adesso proseguiamo con un coro di sezioni ampi. Abbiamo un po' di sezioni ampi che parleranno, in realtà verrà letto un intervento. Allora sono l'Ampi Barona, Corsico, Crescenzago, Cologno, ATM, Vigentina, Rescaldina, Gaggiano, Buccinasco, Calvairate, Cassina de' Pecchi, Zadera e Odri Ampi. Odri Ampi, tutte vivono e animano i quartieri e i territori in direzione ostinata e contraria. E questa sera ci leggeranno un intervento e lo leggerà per noi Silvia Pinelli. Però sale accompagnata tutto il coro da altre rappresentanti, per cui li accogliamo con un beh Marti l'intervento dell'Ampi lo ascoltiamo tutto. Ognuno ha portato la sua pezza, è un coro di sezioni. Guadagnatevi il palco. Oh, grazie a tutti, buon 25 aprile. Il concetto di pace dovrebbe essere alla base della vita umana, la legge morale fondamentale di ogni popolo. Come sostiene il presidente dell'Ampi nazionale Pagliarulo, crediamo che si debba lavorare per la pace e fermare l'escalation bellicista che sembra essere l'unica bussola per tutte le parti in causa. È necessario sostituire le armi con le parole, con la mediazione e attivare aiuti umanitari. Se dopo una pandemia si finanzia la guerra e non il lavoro, la sanità e la scuola, è evidente la logica del profitto di pochi a scapito del miglioramento della società intera e soprattutto di quella parte di popolazione che ha bisogno di lavorare per vivere. La resistenza è stata una lotta di donne e uomini, nata dalla volontà di conquistare la pace. L'esercito italiano, a causa della dittatura fascista, ha dovuto combattere su più fronti per decenni e poi a fianco dei nazisti. Il fascismo ha il triste primato di aver usato armi chimiche contro civili indifesi e innocenti. Chi entrò nella resistenza e poi scrisse la Costituzione sapeva che doveva evitare che orrori simili si ripresentassero. Ecco perché Ampi, che è portatrice dei valori dei partigiani e della Costituzione, oggi chiede insistentemente la pace e cerca la via diplomatica e non quella delle armi. Chi oggi accosta fenomeni storici diversi al solo fine di trovare maggior appoggio per questa guerra mistifica la realtà passata e quella attuale. Ampi viene attaccata anche per il coraggio di dire la verità e di analizzare il presente. Abbiamo radici salde e una base che nella sua maggioranza condivide le posizioni pacifiste. Pertini affermava che se i popoli della terra coralmente potessero esprimersi al di sopra di ogni differenza ideologica, politica, di ogni razza, al di sopra di ogni credo e di ogni differenza di credo religioso, tutti i popoli della terra si pronuncerebbero per la pace contro la guerra. Vogliamo colombe bianche, non neri avvoltoi. Ora è sempre resistenza. Ora è sempre resistenza. Ora è sempre resistenza. Ora è sempre resistenza. Grazie ragazzi, ragazze. Dai, molliamo però un attimo il colpo. Ok, adesso perché io e la Paola... Perché il 25 aprile è festa, è anche birrette, no? Come va? State bevendo le birrette? La signora è seduta, continua a sorridere, dice di essere comoda. Signora, poi bisogna rialzarsi. No, no, ma brava, lei rimane, stenda ma... bene le gambe. Ma state bevendo o no? Qua non abbiamo percezione. Bevono, bevono. Oh, ecco che si alzano... due birre, ma non bancarelle e fricchettone ne abbiamo. Tre. Non ho ancora fatto un giro, ma sento, ci sono, non si vede bene cosa vendono, ma ci sono sento anche Vanna Marchi. Vabbè, birrette, però noi abbiamo qualcosa di un po' più forte della birretta. Un pochino più fortino, non so, un whiskino. Un whiskino. Un Long John, forse. Rapper, freestyler milanese. Attenzione, no. La scaletta dice... freestyler milanese, scozzese e neozelandese di origine. Cioè, ma è cosa c'ha questo uomo nel sangue? Non lo so, adesso lo scopriremo. Comunque, cofondatore della crew, io spero che si pronunci così. Lo guardo, J-Tag. J-Tag. Abbiamo detto bene? Sì, padre artistico del progetto Mani Pulite. Mm. Long. Yo, yo. Joe. Yo, Milano, ci siamo. Io la Neozelanda la vedo tutta, cara Paola. GGG Milano. È un onore per me essere su questo palco. Grazie a partigiani in ogni quartiere, grazie a tutti voi. Vedo solo belle facce stasera. Vi porto un po' di rap internazionale fatto alla vecchia maniera col mio amico Stoma qua dietro. Yeah. Fate un po' di casino. Alzami un po' il beat, per favore. Beat un po' più alto. Who the most underrated? Fammi un rewind, il beat un po' più alto, se si può. Ancora, ancora, ancora, ok, ok, ci siamo. Fammi un rewind, per lanciamo, pullo! Pullo! M.E. Long John, Milano Est nella casa. M.E. Worldwide. Chuno. Yeah. Who the most underrated? Don't debate it. Swear to God, affidavit. Still be a star like David. I can't fake it. I'm the greatest. I made it. Save an ace's dog. I ain't the one to play with. Yeah. Your rap's basic, lacking flavor. Man's a hater, emasculated, jacket jaded. A masturbator, harass your neighbor. Meet a maker, meet your maker. See my alpha, beta's paper, save for later. Alley, Vegas, Sega. I got mega drive, labor, day off. Stay inside, write it right. Then I recite it, be out of this world like a satellite. So many times I say I'm through with this. Make my moolah off the streets if I'm moving this shit. Ever wonder if the truth exists? The proof is this, they praise the God like the crucifix. So, Milano, una mano in alto se vi piace sta roba. Marti, ci siamo. Marti, mi senti? Mi senti? Io ti sento? Cioè, tu mi senti? Io mi sento. Ci sentiamo. Sì. Ah, sono riuscito a togliere questo delay fastidioso che avevo nel momento in cui parlavo. E adesso sono riuscito a fare pace col cervello. Abbiamo un attimo abbassato Long John Silver dal palco. E cosa possiamo dire? Nel frattempo la piazza, se possiamo così dire, la piazza è gremita. Si è riempita tantissimo. Quante persone ci saranno? Gulli, quante persone ci saranno? Le palestre popolari. Le palestre popolari di Milano. Principalmente le sberle. Palestre popolari di Milano, gente che fa box. Quelli che corrono in giro? Ho detto quante persone ci saranno. Ah, ho capito un cazzo, ho capito quelli che corrono in giro. Secondo me 500-600 veri. Di più dici? Un migliaio? Siamo al migliaio? Un migliaio non lo so, però. Beh, possiamo dire che stiamo finendo i panini. Volete un panino da mangiare? Sì, grazie. Io portiamo subito prima che finiscano. Io vegetariano, per favore. Vegetariano? Sì. Ti servono. C'è il panino, c'è il piatto vegetariano. Couscous. Quello che hai. E allora, uno grazie. Diceva 500-600 persone. Secondo me se consideriamo il parcheggio, secondo me siamo sulle 800. Ma fai conto, allora descriviamo un po' la situazione. Il palco è adiacente al parcheggio, ci sono 1, 2, 3 diciamo navate di colonne. La prima e la seconda navata sono completamente piene fino a, non so, 60-70 metri dal palco, a destra e una trentina a sinistra, e sotto il palco, cioè sotto il palco, di fronte al palco lo spazio è tutto riempito dai comunque partecipanti. Se possiamo dire che sta finendo il cibo, vuol dire che di gente ce n'è, quindi affrettatevi, perché oppure ne abbiamo portato troppo poco, però no io credo che ci sia veramente tanta gente, quindi direi a chi è ancora indeciso di correre. La birra non manca. La birra dici che non sta finendo? No, la birra non manca mai. Oppure possiamo dire che sta finendo, così si apprestano a raggiungerci. Esatto. Se avete mangiato a casa, per esempio, potete venire a bere una birretta questa sera qui. Nel frattempo palco c'è quella ragazzina che ci guarda stupefatta con, sì, quel panino in mano, che mi sta facendo un languorino. Adesso vado e glielo rubo, ma ci sorride. Ciao piccola. Va bene. Mi ha non sorriso, però non poteva salutare perché aveva le mani piene. Aveva le mani e la bocca piena. Rimettiamo un po' di palco, come vogliamo gestirla? Ma sì, ascoltiamo un po' di palco, dai, che stanno spaccando i ragazzi. Un po' di palco, Long John Silver, a voi. Se porto vivo, oh, oh, se porto vivo. Un po' troppo violento, sono entrato violento, dici tu. I'm ready to die. Oh, porto vivo, oh, oh, se porto vivo, oh, they got me buried alive. I'ma do it big because I'm ready, yeah, ready to, yeah, die, ready to die. They know I'm ready to die, ready to die. I ain't ready to die, I ain't ready to die. Yeah, I made great raps, fake rappers hate that. Boy band, take that, only sing and playback. Y'all made the game whack, hip hop junkie claim that. Can see Nirvana vein, needle in the haystack. I'ma stay at it, I'ma rhyme at it. Beef is automatic if you wanna find static. Right lines and rabbit, grind is titanic. Shit is going down, boys, like the Titanic. That me colossal, work a Picasso. Old school like a fossil, never street like a waffle. Even Jesus had falafel, got 12 apostles. Multiplicate the bread, money giving them the gospel. What? Oh, oh, oh. Allora, oh, sepolto vivo, oh, oh, sepolto vivo, oh, oh, they got me buried, oh, alive. I'm doing it, I'm ready to die. Ready, oh, oh, ready to die. Oh, oh, oh, ready to die. Sepolto vivo, ah, they got me ready to die. Ready to die. Milano ci siamo, piace questa roba. Long John! It's all love. Grazie. Next track. Se si può avere ancora un po' di base in spia, per favore. Avvicinatevi comunque, eh. Sì, venite più vicini, signori. Venite più vicini, signori. Ah. Ah. An old lady in villa, reading her ratio. Fuck a TikTok, my watch is a Casio. Top, call it fellatio. Itch wanna break, Parker like Maceo. The radio, spinach of bronies. Cronies with no steez, acquire the proceeds. GMO seeds feed desire to clone these. Phony MCs only fire emojis. Suicide him like Epstein. Let's see, you can die in a wet dream. Evelyn, baby, I am a sex fiend. My ex-queen, mean to me, so when she left me. Jesus Christ, I'll be life after death. Could you please ask your wife to get dressed? Dress like a leader, fight for respect. Nike and Adidas, I got stripes over checks. Yes. bad taste. Taste. Bad taste. Bad taste. Gotta spit it out in your face. Bad taste. Bad taste. Bad taste. Gotta spit it out in your face. Face. Bad taste. Bad. Bad taste. Bad taste. Gotta spit it out in your face. Bad taste. Bad. Bad taste, bad taste. Yeah, I gotta spit it out in your the face. Only click that I know is the click that I roll with. You click on the mouse, I figure you're scrolling. Ah, the campaign for promotion. Difference between us ain't a sea, it's an ocean. Oh shit, now your motherfuckers trolling. Hoping we don't get up and go in. Opening doors after we close. We don't care about your clothes or if your rollies are golden. Oops, stolen. Go and tell the pigs. All the shit you bold about is blowing in the wind. You sucked it. Admit, turn tricks to get rich. The only needle in scratch when you inject a syringe full of steroids. These toys got my boys annoyed. For the void left by droids that automatically destroy the culture of hip hop. But I'ma let the fifth pop catch his shot at Freud when they motherfucking shit fly. Bad taste, bad taste, bad taste. Gotta spit it out in your face. Bad taste, bad taste, bad taste. Gotta spit it out in your face. Bad taste, bad taste, bad taste. Gotta spit it out in your face. Bad taste, bad taste, bad taste. Gotta spit it out in your face. Milano, come on. Okay. Più voi fate così, più io mi trasformo. Un attimo, Massimo, questa spara, quindi devi abbassare un po' il volume, eh. Se no, qua i timpani tornano a casa bucherellati. Bucherellatissimi, forati. Vai, Massimo. What you want, bro? Allora presento il mio caro amico Mirko Stoma. Fate un po' di casino per Mirko Stoma. Gran bella serata, Fedoro, veramente gran bella serata, gran bella musica. Marti, scusami, ho la bocca piena perché il compagno Gulli si è, diciamo, si è prodigato per portarci del cibo. Assolutamente sì, mi ha rubato il cibo di bocca. Dell'ottimo couscous, tra l'altro. Comunque sì, ne parlavo qua con i colleghi, un po' di tecnici, e effettivamente secondo noi il numero potrebbe essere intorno al migliaio, anche se sì, dalla secondo me ci siamo, se tu guardi anche di là c'è veramente gente perdita d'occhio, eh. Io vorrei alzarmi per vedere alla destra o sinistra, dal punto di vista del palco, quindi dall'altra parte, sì, che noi non possiamo vedere da qua perché non arriviamo a vederci, cioè se dobbiamo proprio davanti al palco è una schizza di gente in piedi che ci impedisce la vista. Devo dire che i ragazzi sul palco in questo momento stanno spaccando, per cui secondo me stanno attirando un sacco di gente. Dici? Sì, sì, sì, assolutamente. Sono le 7.48 in diretta da Famagosta, partigiani non nel quartiere, Radio Zan presente zona autonoma Milano nell'organizzazione e ovviamente nella diffusione via etere di questa bellissima manifestazione. Vi rimettiamo un po' di palco e a questo punto finiamo con scusa. Gento. Came up in the game by chance. Never thought that I would make the band. My ranks been smaller than a grain of sand. Never thought that I became the man from the city of Milan or San Fran. You know who got the greatest jam? Raise your hand if you don't understand. Ask a question, never ask for attention. Take a stand, never take the stand. Here's a life lesson on a change of plans. Blames and detectives make a collective. With the razor blade, I'm finna dissect it. Put it into perspective, we're interconnected. So the records that I claim, yo, my name is respected. The method to the madness, came to get practice. Storm, I send the beat, weapons, I backed it. Your frame, I done blasted, now your brain in a casket. Verbal ammunition, when I claim that these bastards, I don't laugh in the face of a major chief. Talking about a key, major cheese is plain to see. Came with the major league. There ain't a damn thing you can say to me. E di te libertà, rilancio. La libertà, rilancio. Più libertà, rilancio. La libertà, sì. Andiamo alla prossima, Stoma. Grazie a tutti, solo belle facce stasera. E questo è per i ragazzi che non se la passano tanto bene. Dai John, alzami un po' il beat per favore. Alzami un po' il beat per favore. Alzami un po' il beat per favore. Alzami un po' il beat per favore. Jeez, I hope all is well. Even though you live in hell. Sick in the cell, got this in the mail. I wish I could pay for your bail. On the quinto raggio, sun don't shine. I keys in Ponte Lambro, live a life of crime. Heard it through the grapevine, we don't make wine. Ain't talking application when we face time. Keep the sign, gotta be bad. They lock down the hood, everybody be sad. It's a lottery in the can, they could possibly stab. That shit ain't looking good, colostomy bag. But I'ma do whatever it takes. Hey, hey, you need cash flow on regular takes. Help the grand slope ahead of the snake. Enemies of the state helping felons escape. Let me break down these prison bars. Everybody sue! Everybody sue! Break down the prison yard. Everybody sue! Let me break down these prison bars. Everybody sue! Let me shut down the prison guards. Black John! Aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye. I read a chill letter and it made me cry. They wanted us to stay behind. I'll be catching tears in my baby's eye. Aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye. I read a chill letter and it made me cry. They wanted us to stay behind. I'll be cashing tears in my baby's eye. I look to the slammer for mistakes that I made. So I can say that I'm brave. Never been a gangster, well, I say that I'm made. In the grave, count the days to my grave. Passing in mate and rage. What the fuck did you say? Bust your brain with a rusty blade. Busting your brain. Some will run from the pain, others run from the shame. Inside, outside, one and the same. Damn, sorry man, you didn't pass the polygraph. The system changed the plan on your sorry ass. Got a body bag invested like a Cartier. Now you got the prison blues, shiny cash. These cats concentration, they demand cooperation. Indoctrination, changing our relation. Paper making paper roll for mass incarceration. Let me break down these prison bars, so we can break out the prison yard. Milano! Let me break down these prison bars, and then we shake down the prison guards. Everybody sue! Hey! Hey! They wanted us to stay behind. I'm catching tears in my baby's eyes. I read a jail letter and it made me cry. They wanted us to stay behind. I'm catching tears in my baby's eyes. Milano, vi piace questa roba? Ne volete ancora di questa roba? Beh Marti, ci piace un sacco questa roba, perché ti alzo, perché è roba bella, roba del 25 aprile, partigiani nel quartiere, ne vogliamo sempre più, ne vorremmo almeno due all'anno. Sei off? Prova adesso. Non so cosa farci. No, no, è questo. Secondo me è il tuo cavo. Vabbè, rimettiamo il palco, poi scopriamo. We'll let the children connect to us some silly invest the rippers, rappers, properties are building. Estimates are chilling, manifested in the system. Contraceptors never destined for civilians. Church is obsessed, worship and death. Sex, surge is obsessed, worthless and text. Virgins are blessed, purge in the flesh. Now they sermons are sermons concerned with incest. Exorcist theologians profess the obvious, abolishing the origin of our religious tolerance. Apocalyptic operas, the operas, the fathers, hieroglyphs. From Memphis, novelists, abandoners of a fate is moderate, yet two-faced, a few safe. Rape, use bait, just take a shoot, pray. Sick parade, sick, sick, sick, spade, tip, shit, spade. When they wish sente? Era questo quello giusto, Fedoro, te l'ho detto io che era quello giusto. Stavo sbagliando il cursore? Sì. Perché? Quale alzavo, questo? Sì, stavi alzando quello di destra, sì. È un errore di parallasse, scusa. Beh, un errore abbastanza grosso di parallasse. Torniamo al palco, vai. Torniamo al palco. Me east, implanting the sea in the seed is quite clear. Can you see a bright flare? Yeah, if I would follow my kumba, watch your mama drop a ras and draw me loud and oh. Put the sambuka, time fly, foot to bar, bad time, stop far. Sankara, finuce, araba, traba, pasa, che pasa, prosper, pasa, masha. Look at dollar, dollar, you want a mala, ala, priest, prima donna, PC, McDonald's, so the preach, don't even bother. Leech of the nation, covenant unto pagans, rosaries, I say it back, we're telling them to Satan. Brother up from Basin, some among the Basin, claiming all the rights of your maidens and fornication. Sacred flagellation, castration, of masturbation, fixation, the lacerations, Jason. The last occasion, shit, put the sea safe verbatim. Little plates, the waves are praising. Ci siamo. E dite libertà, libertà, libertà, libertà. Ain't no man with a beard or a bit. In your head, you can see it right there. Libertà. Implant in the sea, in the sea, that's right clear. Can you see a bright flare? Libertà. Implant with a beard or a bit. In your head, you can see it right there. Libertà. Implant in the sea, in the sea, that's right clear. Can you see a bright flare? Libertà. Can you see a bright flare? Libertà. Can you see a bright flare? Di libertà! Can you see a bright flare? Di libertà! Can you see a bright flare? Di libertà! Can you see a bright flare? Di libertà! Can you see a bright flare? Di libertà! Can you see a bright flare? Di libertà! Can you see a bright flare? Di libertà! Oh, next time, Jama. Thank you. It's all love. Abbiamo qui con noi Tuttù di Coro Resistente che fa una battuta velocissima su questa giornata, su questa manifestazione prima di salire sul palco. Certo, noi adesso tra penso qualche minuto saremo sul palco e canteremo le nostre canzoni della Resistenza. Oramai da tanti anni siamo presenti a Partigiani in ogni quartiere e siamo contentissimi di partecipare a questo evento. Dimmi. No, vai, vai, vai. Evento che noi condividiamo, partecipiamo convintamente a questa manifestazione. Da almeno 15 anni. No, beh, noi siamo qua, diciamo, partecipiamo a questa manifestazione, diciamo, da 4 anni. C'è stato un momento che ricordo particolarmente bello. Quando è stata fatta prima della pandemia all'Arco della Pace, che c'era una marea di gente, non mi sarei mai aspettato. Beh, anche oggi non ci lamentiamo, no? No, oggi c'è tantissima gente, però la location non è quella dell'Arco della Pace. È quella che è, noi dovevamo, però, essere, esatto. Dovevamo essere all'Arco, lo sai meglio di me. Certo, ma, certo. Il tempo non c'è. Certo, tra l'altro qualche goccia viene giù, quindi avete fatto benissimo. Meglio così, dici tu. A farla qua. Ma la scaletta ce la dacci in anteprima? La scaletta, scusa? Ce la dici in anteprima? Sì, se vuoi te la dico. Faremo fuoco e mitragliatrici, Valsesia. Dopodiché ci sarà l'intervento. Ecco, mi sono dimenticato di dire che nel nostro coro canta Giovanni Marzona, nome di battaglia Alfa, che è un partigiano, 94 anni e canta con noi. Quindi ci sarà il suo intervento e poi chiuderemo immancabilmente con... Dai, ciao. Bravo! Ma fischia il vento? Eh? Fischia il vento? Fischia il vento, ma abbiamo un quarto d'ora in totale, quindi abbiamo dovuto fare una selezione. Come track da bis, lo chiederemo dalla radio, vi chiediamo il bis dalla radio e fate fischia il vento. Va bene. Dai. Ti ringrazio. Grazie, grazie, buona serata, ciao. A te, buona performance. Bene, ciao, ciao. You can thank me later. Touch the sun, see the moon. Favor for a favor, for a favor. Aha, Milano vi piace? Ne volete ancora un po'? Lockjaw, baby! Alla prossima, Dion. Ancora tre. Ancora tre, ragazzi. Fatemene fare tre, dai. Veloci, veloci. DJ Quest, Nami, Nami, Nami, Nami. who the fuck is this? If I don't know my name by now, slit your wrist. Pugni su, pugni, rapping with the lips. I don't wanna dip. You look a little pissed, la, la. One season the assist, Italy, where we beat, feel that continental drip. Beats on repeat, turn your hit into a myth. Putting me to sleep, activist, I'm an activist. Acting out activity, without the negativity. With ability, come responsibility. Of your life, that's limited liability. Got family in Sicily, and they missing me. Watch out on the street, they be slippery. One false move, and your history. Wanna see us free, holy trinity. Milano, vi piace? Com'è Milano? Ooh, hey. OG and it's vicious sweet. Get it on delivery. The block is hot, red degree. These rocks are not from Tiffany. Cooking like a fricassee. Living in misery. No synchronicity. Ow. My brother CB whipping key. The mother moves slow. He sniffing speed. Martin, ma cosa sta succedendo qui di fronte? Cioè, vedo una ressa di gente che non sono qua per noi. Ma secondo me sì, anche se ancora non lo sanno. C'è una che sono qua per Radio ZAM. Che è qua per Radio ZAM, perché alla fine il collettivo ZAM organizza questo evento da 15 anni, insomma, non siamo esattamente dei novellini di questo evento. Co-organizza, se vogliamo. Co-organizza, certo, assolutamente. Li salutiamo? Salutiamo chi? Loro? Questi qui di fronte a noi che fanno baldoria. Ma non ci stanno guardando, però più, se vuoi fare la figura del pazzo, salutiamo. Prima erano più. C'era gente. C'era gente. Once and never change. You play with guns, we raise sons. Why I chase hunts and take them to your grave. Drinking champagne spray. Strange day, can take the pain away. Stay safe, sipping hate away. Go against the grain, even though you made the way for these bumps. Un'altra cosa che mi chiedo, ma secondo te il tipo ballerino dov'è finito? Perché sarei curioso di vederlo danzare su questo beat che, cioè, io non sono capace. Secondo me sta facendo, com'è che si dice quando i rapper rappano, fanno quella break dancing. Esatto, sta facendo break dance sotto il palco. Ma da qua, se lo sta facendo, da qua non lo vediamo perché c'è troppa gente, non riusciamo a vedere. C'è veramente un sacco di gente, sì. Però in effetti un po' di gente che danza, applaude e si muove c'è, secondo me c'è anche lui da qualche parte che sta regalando emozioni a qualcuno, purtroppo non più a noi. Dovremmo richiamarlo sul palco, io lo vorrei. Dici una lezione? Se no potremmo prenderlo a ZAM a fare lezioni di break dancing. Diventa un po' difficile in radio, secondo te ce la potrebbe fare? No, non in radio, a ZAM come laboratorio. Come laboratorio. Che oltre il teatro, oltre la box, oltre la palestra d'acciaieria, il bouldering, eccetera, potremmo avere il corso di break dance. Sì, assolutamente ci starebbe. Lo spazio c'è. Vabbè, torniamo in diretta col palco e tra poco i canti popolari. I said we better break. Reaching for the heavens, yeah. There's nothing left to say. You're always on time, never late. Love you like a lemonade. Until I reach my final resting place. Feeling all the pain. Couple of times and your feet is on the space. Chase, leading on the chase. Reach into your mind, find a demon to embrace. Yeah. I'm a leader. On the real, I wouldn't wanna be. Milano. On a beamer. Stuck in traffic on a normal Valazina. I'm a dreamer. Now won't you come dream with me? All the mocha that I shake, got me feeling like a ninja. Better come prepared, all the enemy I meet it again. Now I'm blue again. Got mama said I cannot comprehend. Hey. The cram till the cramp, creeping in the band, swishing up the wind, then we feel like kind of sand. Some are saying when, others ain't mad. Never need a fun to brand, now we need a name. I'm a leader, on the rhythm, what I wanna be. On a beamer, stuck in traffic on a Nuova Valentina. I'm a dreamer, I'm a dream, I'm a dream, I'm a dreamer, I'm a dream, I'm a dream, I'm a dreamer. And won't you come dream with me? Allora, Milano, Famagosta, mi fate un po' di casino al mio tre per Long John e per la libertà. Uno, due, tre! Sold out. Uno, due, tre! Uno, grazie. Due, tre! Long John, baby! Se volete c'ho le copie fisiche, ragazzi, perché è interessato a supportare la musica indipendente. One love. Grazie ancora a partigiani in ogni quartiere. Supportiamo la musica indipendente e le radio indipendenti. Comunque, probabilmente, da come avete anche sentito dagli applausi, dall'ovazione, la gente è tanta. La gente è veramente tanta, sì. Allora, io ti dirò la verità, Marti. Quando mi hanno detto, praticamente questa mattina, che avremmo spostato la venue dell'evento dall'Arco della Pace a Famagosta, ero un po' preoccupato per la partecipazione. Ma devo dirti che sono veramente impressionato da come abbia risposto il pubblico. Sì, sì, assolutamente, non si sono fatti spaventare dal cambio location, non si sono fatti spaventare dalla potenziale pioggia che in questo momento sembra pare che ancora... Qualcosina. No, qualcosina inizia a scendere, sì. E ti confermo che se dovesse iniziare seriamente ce la prendiamo tutta. Sì, vabbè, siamo qua anche per questo, per sacrificarci per la live di questa sera. Comunque palco gremito. La live o il live? Diretta live o... No, secondo me è la live, la diretta live. Il live però mi piace di più. Ma dovremmo avere un inviato che ci dice se qualcuno ci sta aspettando sotto l'Arco della Pace. Magari qualcuno a cui non è arrivata la comunicazione del cambio di location. Ma secondo me è arrivata, perché qua è veramente pieno, pieno, pieno di gente. Veramente bella gente, tanta bella gente. Un palco super frizzante. Esibizioni incredibili. E non si ferma qui, perché poi la diretta va avanti fino a serata piena, fino a mezzanotte. Inoltrata. Sì, sì. Siamo qui fino a mezzanotte, vuoi dire? No, secondo me la diretta la chiudiamo un po' prima, ma vedremo, perché esauriremo le batterie a un certo punto. Sì, e sicuramente sì, però riuscirà anche a darci il cambio, ma Radio Zambì sorprenderà come vi ha sorpreso con la nostra, diciamo, alla fine abbiamo un banchetto super minimal ma super funzionale, perché sta funzionando tutto alla grande, tutto alla grande, infatti è stupefacente, funziona quasi meglio qui che in radio, veramente sì. Infatti vedremo cosa succederà in settimana. Nel frattempo sul palco stanno arrivando i canti popolari. Sì. Sta succedendo qualcosa, si sta preparando il palco per... delle ovazioni. Dei nuovi ospiti. Comunque dovremmo chiedere a tutte queste persone di fronte a noi di sedersi, perché io non capisco niente e non riesco neanche a leggere i segnali di fumo che dal palco ci fanno quando... Ma proviamo noi ad alzarci, Fedoro. Vedi perché. M'ammazzo. Non è una buona idea alzarsi con tutti i cavi che abbiamo addosso, ma va bene così. Ma in questo momento le due presentatrici sono sul palco e stanno cercando gente, stanno chiedendo di alzare le mani. Stanno cercando gente per farla salire sul palco, immagino. E tu dici che è il classico momento in cui l'artista comunque è andato a mangiare il panino e non sapeva che è il suo momento, no, non credo. Comunque da questo punto di vista vedo che anche il lato sinistro barra destro, a seconda del punto di vista del palco, è bello bello gremito. Aspetta, a questo punto voglio alzarmi anch'io e vedere. Alzati, Fedoro, guarda quanta bella gente che c'è. Sì, dal mio metro e un cazzo non vedo molto bene, però effettivamente un po' di più rispetto a quanto ero seduto e effettivamente... Il colpo d'occhio è bello, abbiamo anche della gente là di fronte, guarda com'è pieno. Un sacco di gente che ci guarda anche dalle rampe di accesso alla metropolitana. Comunque veramente tanta tanta gente di diversa estrazione, diversa età. Siamo molto contenti di vedere tutta questa partecipazione. Aspetta che in questo momento abbiamo un intervento di un partigiano doc. Sì, mi sa che dobbiamo lasciare spazio a loro. Ancora resistente, che ancora il palco che trema. Esatto. Non ho paura di cascar dentro. Ma lei non arriva mai da solo. Sono venuto su piano. Ma lei non viene mai solo, c'è poi tutto il coro. Paola, loro sono tantissimi, dobbiamo lasciargli spazio. Noi lasciamo spazio al coro e poi al suo intervento. Poi vediamo. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Fateci cantare, grazie. Ragazze. Grazie. E grazie a voi altri che siete venuti e adesso avrete un po' di pazienza. Invece del rap sentirete un coro della resistenza. Cercate di avere pazienza e di applaudirci lo stesso. 94 grazie. Anni, quasi. Ciao a tutti, siamo il coro resistente. Come avete visto, abbiamo l'onore di cantare insieme a un partigiano che tanti di voi conosceranno perché fa tanti interventi nelle scuole. Noi cantiamo insieme dal 70° anniversario della liberazione e niente, adesso ci sentirete, faremo solo due pezzi. Il coro resistente nasce dall'idea di due di noi, come dire, non è mai troppo tardi per realizzare un sogno, e adesso faremo due pezzi e poi Giovanni ci dirà qualcosa. Grazie, sempre resistenza. Nel frattempo il coro resistente si sistema perché sono anche difficili da piazzare sul palco, sono tanti e stanno sistemando i microfoni direzionali. Sono veramente tanti, sì. Il coro resistente si è messo a... Okay. Eccoci. Sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra quando i fratelli sono morti di già. ringraziare tutti. È chiaro che noi facciamo delle piccole ricerche sui canti partigiani un po' antichi e volevamo ringraziare anche il nostro giovane maestro Jacopo Soler, perché lui ci ha un po' impostato, perché noi prima facevamo tutto in autonomia ed eravamo molto peggio di così, per cui... Non vi rubo molto tempo, vi voglio solo ricordare che oggi è il 25 aprile, 25 aprile giornata della liberazione, no, noi dobbiamo sentire il 25 aprile la giornata della libertà, come cantate voi altri, liberi, libertà, noi vogliamo la libertà. Ecco, noi partigiani, ricordatevi, voglio essere molto breve, ma ricordatevi che a nome del popolo italiano i partigiani hanno fucilato il fascismo e voi altri oggi dovete fare in modo che non rinasca. Grazie. Bella ciao, è una cosa che teoricamente non si dovrebbe fare, ma lo facciamo perché abbiamo con noi Teresa di Rete Non Più Lager. E... Mai Più Lager, noi CPR. Noi CPR, sì. Che tra poco è il vostro turno. Sì, saremo sul palco e niente, in una giornata che parla di resistenza e soprattutto di liberazioni, ci sembrava un must e siamo contenti di essere qui per poter parlare di questo nuovo lager che è questo centro di detenzione amministrativa che è in via Corelli, quindi secondo noi non si poteva non menzionare che nella nostra stessa città c'è un luogo di restrizione delle libertà di persone che non hanno commesso alcun reato, quindi il giorno della liberazione ci sembrava necessario la nostra testimonianza. Ovviamente si parla di Corelli qua a Milano, sì, che è il lager, diciamo, dove vengono rinchiusi le persone prive di permesso di soggiorno, i migranti che arrivano prima del, esatto, sì. Già da qualche anno, no, che se ne parla, che sì, ne avevano parlato già dal 2018, infatti la nostra rete è stata fondata quando si è saputo che sarebbe stato istituito a Milano, però poi l'hanno aperto nel settembre 2020, noi siamo stati anche a seguito di un senatore per fare un sopralluogo, quindi abbiamo anche visto con i nostri occhi quello che c'è là dentro e denunciato anche. Quindi c'è nei nostri social, quotidianamente siamo in contatto, quindi... I vostri social, dacci un po' i riferimenti? Sì, c'è un Facebook, Mai Più Lager Noi CPR la pagina, e poi anche il profilo Instagram Noi CPR e poi anche Twitter. Grazie della vostra testimonianza e grazie. Buon intervento. Grazie a voi, buona resistenza e buona liberazione. Super, top, iper, che brividi, che brividi veramente, grazie, che brividi nell'underground, nell'underground ci siete tanti, vi vediamo. Allora, avete capito che qua sul palco di POQ si sta costruendo un po' un lessico che non è certo il lessico mainstream, va bene, abbiamo parlato di solidarietà, ok, di resistenza. Come diceva Domenico nell'intervento di apertura, parole che non sentiamo. Che non tutti sentiamo i giorni. Spesso, soprattutto parole che non corrono sui media, ma che portiamo spesso nelle piazze con le comunità resistenti. E adesso allora è il momento della giustizia climatica, che per forza va di pari passo con la giustizia sociale, ce lo ricordano i ragazzi, le ragazze, gli attivisti e le attiviste di Fridays for Future, che parlano per noi stasera. Martina Comparelli, vieni Martina, eccola che si fa largo. Benvenuta nel backstage gremito dal coro resistente. Ecco Martina. Abbiamo un microfono per Martina, microfono Lorenzo, per abbiamo Martina. Il microfono per Martina, eccolo qua, senza asta Martina. Va bene, ce ne faremo una ragione. Ce la faremo. Ti lasciamo a la voi. Parola. Fridays for Future. Grazie, grazie. Oggi si festeggia, o meglio, si ricorda, si lotta, ricordando che per una volta, ma anche più di una volta, abbiamo smantellato un sistema fascista e violento. Ma di sistemi fascisti e violenti ce ne sono ancora, purtroppo. I sistemi che si manifestano, per esempio, nel nostro attaccamento ai combustibili fossili, che finanziano il nostro stile di vita consumista ed energivoro, e allo stesso tempo finanziano dittatori e oligarchi in tutto il mondo. Pensate a chi sta facendo la guerra in Ucraina adesso, a cui noi davamo il 40%, da cui noi prendevamo il 40% del nostro gas. Pensate agli accordi che si stanno facendo con altri regimi autoritari, sempre per attaccarsi ai combustibili fossili, i cui profitti finiscono nelle tasche dei soliti pochi. Chi la sta pagando questa guerra? Le cittadine e i cittadini, i popoli, le popolazioni, le persone. C'è chi dice che il fascismo non esiste più. Non è fascismo continuare a fare accordi con paesi non democratici per finanziare lo stile di vita di pochi? Non è fascismo rimandare la transizione ecologica e mettere continuamente in pericolo i paesi più colpiti dalla crisi climatica, che non l'hanno causata? Non è fascismo reprimere chi riconosce l'urgenza e lotta per la salvaguardia degli ecosistemi, del pianeta e delle specie, e viene continuamente ucciso, come per esempio in Sud America? Il 25 aprile del 45 abbiamo sconfitto un fascismo, ma il fascismo è subdolo. Non illudiamoci che non ci siano più fascismi, perché alla fine queste forme di violenza si ripercuotono e si perpetuano continuamente. Il capitalismo è una forma di violenza, il patriarcato è una forma di fascismo, il razzismo è una forma di fascismo, lo sfruttamento delle risorse della terra e delle popolazioni è una forma di fascismo. Quindi il 25 aprile non può essere solo una giornata di lotta antifascista in senso generale, deve essere anche una giornata di lotta anticapitalista, di lotta antirazzista, di lotta transfemminista e di lotta ecologista. A chi ci vuole, a chi pensa che non sia più importante lottare, noi rispondiamo resistendo ed esistendo. A chi ci vuole morte, in silenzio e invisibili, noi rispondiamo esistendo e resistendo. La nostra esistenza è già resistenza, oggi e sempre. Grazie. Grazie Martina.